4B. Ascolta e rispondi. A che ora siete venuti qui? Siamo venuti qui alle 9. A che ora siete entrati? Siamo entrati alle 11. A che ora siete usciti? Siamo usciti alle 9. A che ora siete venute qui? Siamo venute qui alle 7. A che ora siete entrate? Siamo entrate alle 5. A che ora siete uscite? Siamo uscite alle 2.